Leonardo Visco Gilardi per accordarci sulla presentazione di questa sera e mi ha proposto di parlare 10-15 minuti sulla storia dell'Alto Adige. Io gli ho detto subito di sì, anche perché ero in bicicletta in mezzo a Via Druso e non ha avuto la possibilità di argomentare diversamente il mio intervento. Poi però ripensandoci, mi è venuto in mente che il pubblico che la sera del 23 gennaio va a sentire la presentazione di un libro intitolato L'Evangelico del Lager, forse ha una conoscenza della storia locale già di base che non rende necessario ricostruire ancora una volta tutte le date, tutti gli avvenimenti importanti accaduti a livello locale per cercare di arrivare a capire come poter superare un personaggio come Visco Gilardi a Bolzano fra la fine degli anni 30 e gli anni 50, perché poi non dimentichiamo che qua si parla soprattutto di resistenza, però Visco Gilardi ha operato a Bolzano anche dopo il 45, anzi forse la sua immagine pubblica è legata più al suo incarico di viceprefetto dopo il 45 e la sua attività nel CLN fino a quando negli anni 50 la famiglia si è trasferita a Sesto San Giovanni, lasciando comunque un ricordo profondo nella popolazione locale. Poi però mi è venuto in mente che circa 20 giorni fa su un giornale locale si è sviluppato un notevole dibattito in seguito all'intervento di uno storico che ha accusato questa ripartizione di fare un uso politico della storia tendente a ricostruire un fascismo defascicizzato, finalizzato a creare populismo etnico con l'obiettivo ultimo di creare il partito unico degli italiani. E allora queste cose secondo me sono farneticanti perché la ripartizione, una ripartizione culturale deve fare politica della memoria, ci mancherebbe anche che non lo facesse, insomma, no? Cioè è il compito istituzionale, questa biblioteca deve fare politica della memoria perché una biblioteca come gli archivi hanno questo compito istituzionale e il fatto poi che questo tipo di politica culturale sia finalizzato a creare un partito unico degli italiani, mi sembra una cosa abbastanza demenziale. Nessuno qui vuole costruire la storia dell'italianità di questa terra, però la storia degli italiani di questa terra, a mio parere, è importante. È importante ed è necessaria se vogliamo capire come siamo arrivati qui e ora. E allora, più che ricordare le solite date periodizzanti, il 18, il 19, il 22, il 27, gli avvenimenti che hanno caratterizzato questa storia, mi piace passare su questi avvenimenti ricordando anche alcuni personaggi, alcuni italiani che per motivi diversi e in epoche diverse sono arrivati qua dopo il 18. E a partire ad esempio da Pietro Calamandrei. Ecco, tutti conoscono Pietro Calamandrei. Pochi sanno, pochissimi sanno, anche perché qui ci sono mucchi di storici che si sono formati più nelle scuole di partito che non negli archivi, nelle biblioteche, pochissimi sanno che Pietro Calamandrei è stato uno dei primi sottufficiali ad arrivare a Bolzano nel 1918, nel novembre 1918, e avendo già un'attenzione particolare per la cultura, fonda la prima biblioteca, la prima libreria in lingua italiana a Bolzano, che si chiama Dante Alighieri. È il primo circolo culturale italiano che non si chiama Italia al Brennero Sacro Tricolore, ma si chiama Circolo Culturale Concordia. Ecco, questo è significativo, no? Calamandrei poi rimane poco a Bolzano, non caratterizza sicuramente la comunità di lingua italiana di Bolzano, però questa presenza è particolarmente significativa. E queste biografie vengono studiate poco e vengono presentate, ad esempio, nei giornali dell'epoca sotto mentite spoglie. Ad esempio c'è un personaggio importante che sicuramente Nello Bertoldi ricorderà, che si chiamava Lorenzo Rinfreschi. Lorenzo Rinfreschi arriva a Bolzano nel 23 e apre una bancarella di libri, poi diventa una rivendita di libri nuovi e usati e fonda anche una piccola casa editrice. Il giornale dell'epoca, la provincia di Bolzano, lo presenta come un vecchio amico di ideali di Mussolini, facendo quasi immaginare, intendere che fosse un vecchio fascista. In realtà il Rinfreschi veniva da Pontremoli e voi sapete che a Pontremoli per tradizione, no? Questi andavano in giro per il mondo a vendere libri nuovi e usati con le loro bancarelle, da cui appunto il premio Bancarella. E Lorenzo Rinfreschi, di origine appunto di Pontremoli, era stato compagno sì di Battisti, ma di Battisti socialista. Il Lorenzo Rinfreschi era iscritto al Partito Socialista nel 1902. Nel 1952 il Partito Socialista Bolzano gli fa una festa appunto per ricordare il 50° anniversario di iscrizione al partito. Era stato vice sindaco di Piacenza e nel 1923 arriva a Bolzano perché nel 1923 arriva il fascismo, insomma, no? Per cui lui cerca di cambiare aria, ma non sicuramente fede politica. Un altro personaggio importante, ad esempio, è Rocco Biamino. Ecco, Rocco Biamino che arriva a Bolzano nel 19 come ferroviere comunista, e nel 23 viene, è uno degli organizzatori dello sciopero generale unitario dell'aprile del 21, dopo l'omicidio del maestro Franz Innerhofer, uno sciopero generale unitario di italiani e tedeschi contro la violenza fascista del 24 aprile del 21. E Rocco Biamino poi viene licenziato dalle ferrovie nel 1923, diventa un commerciante ed è uno di questi classici militanti che poi negli anni 20 e anni 30 veniva sistematicamente arrestato prima di ogni manifestazione pubblica, lo andavano a casa al Trisarco, tutti questi abitavano al Trisarco, lo impacchettavano in galera per 3 giorni e poi lo liberavano così. Fra l'altro, quando a Sinigo scoppia una caldaia, negli anni, fino agli anni 30 mi sembra, e pensano subito a un attentato, un sabotaggio operato da agenti guastatori e lui viene incriminato anche per questo. Quindi insomma arriva diversa gente a Bolzano negli anni 20 e negli anni 30 e arriva anche gente di questo tipo. Arriva ad esempio anche Severino Colmano, che era da Trento, è stato un grande collaboratore di Cesare Battisti e diventa poi preside a Bolzano. Arriva Davide Ragni, preside poi dell'Istituto Magistrale, gente che poi dopo il 45 riattiva la propria militanza politica, Ragni consigliere comunale socialista e via di questo passo. E ho visto qui la signora Leoni, e ricordiamo ad esempio Mario Leoni, insegnante per lunghi anni all'Istituto Magistrale e Liceo Classico, membro attivo della Resistenza, collaboratore anche di Visco Gilardi. E quindi arriva tanta gente. Negli anni 20 è un'immigrazione, quella italiana in Alto Adige, con un alto turnover. Arriva tanta gente, ma poi se ne va tanta gente, no? Perché mancano ancora gli alloggi. Quindi l'immigrazione è più dovuta alla irradiazione del sistema amministrativo statale, insomma, no? Che ha un incremento notevole poi dopo il 27, quando viene creata la provincia di Bolzano, quindi Bolzano diventa capoluogo di provincia, quindi chiaramente anche l'archivio di Stato, anche la biblioteca assumono questo rango di capoluogo di provincia. Però il problema degli alloggi caratterizza ancora fortemente la città di Bolzano per tutti gli anni 20. Sicuramente la situazione cambia poi negli anni 30, quando viene istituito l'IACP di Bolzano, no? Fino ad allora, ad esempio, a fine anni 20, lavorava a Bolzano l'IACP di Venezia. La zona di Viale Venezia viene costruita con quello stile, con quella odonomastica anche, no? Viale Venezia, via Rovigo, cioè via Zara, via Fiume, perché doveva ricordare in qualche modo le tre Venezie, va bene? È uno stereotipo geografico, ma anche culturale, ma anche politico, no? Cioè, Leoni di San Marco e Lupi, insomma, no? Ecco, e lo stile, anche lo stile viene per creare una forte identità. Ecco, e l'immigrazione italiana a Bolzano cambia molto negli anni 30, quasi tutti i maestri elementari, i giudici erano di origine trentina negli anni 20, ovviamente, perché i codici civili non sono stati applicati immediatamente quelli italiani, no? Dopo il novembre del 1918, ma per 10 anni sono stati applicati i codici austriaci, quindi i giudici erano giudici trentini o triestini che conoscevano le due lingue e anche i codici austriaci, e anche i maestri elementari erano negli anni 20 maestri elementari soprattutto di origine trentina. La situazione cambia poi nel 31, quando invece questi maestri elementari trentini vengono allontanati, considerati poco adatti a italianizzare la popolazione sudtirolese dopo che le scuole tedesche sono state chiuse a partire dal 26, e vengono rimpiazzati dai maestri elementari italiani regnicoli, diciamo così, come si diceva all'epoca, incentivati anche con norme per quanto riguarda la supervalutazione del sistema pensionistico, cose di questo tipo, norme che sono rimaste in vigore fino a pochi anni fa, perché chiaramente il soldo non puzza. La situazione cambia ancora una volta, dicevo prima nel 27 con l'istituzione della provincia di Bolzano, ma poi cambia ancora una volta nella seconda metà degli anni 30 con la creazione della zona industriale di Bolzano, e qui c'è il presupposto anche poi, c'era un nuovo mercato dovuto all'apertura di queste fabbriche. La Fro, qualcuno di voi se lo ricorderà ancora, fabbrica unita di ossigeno, vendeva bombole di ossigeno, acetilene, così, stava giù in via Galilei, grosso modo dove adesso c'è il Fami, là, le sorelle Ramonda, bene, giù per il ponte a destra, praticamente io fino a 30 anni fa ricordo c'era ancora questo vecchio edificio, e quindi lì praticamente la storia di questa azienda si intreccia con la storia della famiglia Visco Gilardi, visto che rispondendo all'annuncio sul giornale Visco Gilardi decide di arrivare a Bolzano dopo aver fatto il libraio, l'editore a Milano. E voi sapete che nel 39 ci sono le opzioni, a partire dal 40, nel momento in cui i risultati delle opzioni vengono resi pubblici e risulta evidente che il 90% della popolazione ha optato per il Reich, vengono aperti in Sud Tirolo gli uffici di reclutamento della Wehrmacht, perché questa gente si era impegnata a diventare poi cittadina del Reich, per cui vengono aperti uffici di reclutamento della Wehrmacht e anche delle scuole in lingua tedesca che dovevano formare queste persone in vista del loro trasferimento in Germania. Le scuole tedesche sono state chiuse a partire dal 26, vengono poi riaperte a partire dal 40 in funzione del trasferimento di Sud. E queste strutture, rispettivamente la struttura militare di reclutamento, poi il presupposto per l'organizzazione della resistenza, una resistenza antifascista che era stata egemonizzata dalla Chiesa Cattolica negli anni 20 e 30 con le catacombe in Schule, diventa poi egemonia degli anni 30 col successo del nazismo in Germania e soprattutto poi dopo il 40 con l'apertura di queste strutture che non erano neanche più strutture clandestine. Nel 43, quindi, poi dopo l'8 settembre, non si fa altro che portare in superficie, portare alla luce queste strutture che già esistevano. Voi sapete che la differenza fra il Sud Tirolo, il Trentino e la provincia di Belluno rispetto alle altre regioni dell'Italia settentrionale è che qui si parlava proprio di un Alpenvorland, di una zona operativa che, anche se non è stata poi annessa giuridicamente al Terzo Reich, era di fatto sotto il controllo militare, cioè mentre in Lombardia c'era la Repubblica Sociale e i nazisti che affiancavano i fascisti nel controllo poliziesco del territorio, qui di fatto era l'autorità nazista che nominava ad esempio i podestà e le altre autorità locali. Per questa storia particolare, quindi, non abbiamo grandi momenti di lotta unitaria fra sudtirolesi e altoatesini. E, ripeto, c'è stata una resistenza antinazista ma filofascista, una resistenza antifascista ma filonazista, e anche quei pochi che erano contemporaneamente sinceramente antifascisti e anche antinazisti, e sicuramente Visco Gilardi era uno di questi, e anche nel mondo di lingua tedesca c'era gente che era sinceramente antifascista ma anche antinazista, cioè persone che sono finite in galera durante il fascismo ma anche nei campi di concentramento durante il nazismo, magari perché sono stati anche da Bleiber, no? Si erano opposti poi dopo la propaganda nazista nel 39. Ecco, anche queste persone che avevano questa comune radice antinazista e antifascista avevano un obiettivo per quanto riguarda l'assetto territoriale dell'Alto Adige dopo la liberazione completamente diverso. Cioè tutti nel mondo sudtirolese puntavano alla autodeterminazione, rivendicavano giustamente l'autodeterminazione che non era stata una cosa di destra, era stato un ideale di sinistra a partire dalla fine dell'Ottocento, mentre anche i membri del CLN italiano di fatto lottavano per la rivendicazione del confine del Brennero. Anche le polemiche poi seguite, cioè quando si parlava di primo, secondo CLN, con la presenza di De Angelis a Bolzano, il CLN ha fatto una scelta strategica di fondo per quanto riguarda il discorso del Brennero. Quindi anche i discorsi teorici che all'interno della resistenza in Italia si sono sviluppati per quanto riguarda il rapporto fra liberazione e federalismo, pensiamo al Tiro Spinelli ad esempio, pensiamo a Ernesto Rossi, no? Ecco. Anche il dibattito che nel Trentino c'era stato sul rapporto appunto fra autonomia e autodeterminazione, a livello bolzanino non vengono affrontati dai due gruppi etnici in maniera unitaria, perché nonostante questa scarsa operazione in comune rispetto al fascismo e rispetto al nazismo, l'obiettivo di fondo poi rimane molto molto diverso. All'interno di questo universo, quindi, era tanto più difficile battersi per organizzare la resistenza, resistenza che si sviluppa non a caso proprio nelle fabbriche, nella zona industriale e non a caso proprio fra questo tipo di ceto, la dirigenza che arriva dalle altre regioni d'Italia. Va bene? Ecco, gli operai di Bolzano non erano la classe operaia di Torino conosciuta da Gramsci o la classe operaia di Milano che aveva fatto gli scioperi politici contro il fascismo. La classe operaia di Bolzano arrivata in Alto Adige alla fine degli anni 30 era persone che provenivano prevalentemente dal Polesine, non erano la classe operaia del Polesine trasferita a Bolzano, erano contadini che si trasferivano geograficamente e anche socialmente e anche culturalmente, persone alle quali il regime bene o male aveva dato una casa, un lavoro, cose di questo tipo. Tutt'altra cosa è la classe operaia torinese che effettivamente poi arriva in parte a Bolzano nel 44, quando in seguito ai bombardamenti delle fabbriche della Lancia, ad esempio a Torino, alcuni reparti vengono trasferiti a Bolzano, allora lì arriva quella classe operaia lì, che è molto più politicizzata, molto più sindacalizzata, no? E quindi diventa poi anche un tramite della resistenza, anche proprio con attività molto pratica, no? Il trasporto di oggetti, di pacchi, di regali per gli internati del Lager, attività appunto che faceva capo a Visco Gilardi. Sicuramente il Lager è uno dei punti più importanti dell'attività della resistenza, sia per quanto riguarda l'assistenza appunto delle 11.000 persone che sono passate in questo Lager, sia per quanto riguarda poi la memoria di una solidarietà che, anche se non era immediatamente sindacalizzata e politicizzata, era la memoria di un'attività che ha dato assistenza, ha dato rifugio molto spesso agli internati del Lager e alle persone che erano obbligate a prestare lavoro coatto nei campi intorno al Lager. Vi ringrazio per questa attenzione, passo la parola ad Andrea. Ecco, io naturalmente innanzitutto ringrazio la presentatrice poco fa che mi ha definito uno storico. Naturalmente io non sono uno storico, sono casomai un divulgatore di storia, perché di mestiere faccio l'insegnante di storia e filosofia, e come attivista dell'AMPI mi diletto naturalmente di ricerca storica finalizzata fortemente alla salvaguardia della memoria e con un profilo di attenzione che è anche di tipo divulgativo e anche di tipo didattico, se vogliamo, che rimane al centro dei miei interessi. L'intervento di Giorgio Delle Donne, quindi, è un intervento con cui ovviamente non mi permetto neanche di comparare la qualità dell'intervento che farò ora, perché naturalmente il mio discorso verterà maggiormente nel cercare di inquadrare questo testo all'interno dell'esperienza della resistenza in provincia di Bolzano, condividendo in buona parte, anzi ringraziando Giorgio Delle Donne di aver fatto un'introduzione, un preambolo storico molto efficace, molto lucido, che prepara un po' il terreno per introdurre appunto la figura di Ferdinando e Mariuccia Visco Gilardi dentro al quadro di questa situazione particolarissima che è questa Operationszone Alpenvorland in provincia di Bolzano tra l'8 settembre del 43 e il maggio del 45, dove si situa prioritariamente proprio la fisionomia resistenziale di Visco Gilardi. Però mi fa anche molto piacere cercare di inquadrare complessivamente, poi penserà il pastore Bouchard a metterci a posto su questo piano qua, suppongo, anche il profilo intellettuale, il profilo culturale di questa figura così particolare che si staglia per la sua eccezionalità, e lo dico senza piaggeria nei confronti dei numerosi parenti presenti in sala, che mi ha colpito molto, devo dire la verità, perché è una figura che io conoscevo indirettamente attraverso lo studio, la lettura e la documentazione di quello che è stata soprattutto l'esperienza del Durchgangslager di Bolzano, di Via Resia 80, e in cui la figura di Visco Gilardi è ricordata da tutte le testimonianze, da tutte le persone che sono sopravvissute alla terribile esperienza del campo di transito di Bolzano, e come una figura in qualche misura addirittura leggendaria, di organizzatore, di solidissimo sostegno morale, ma soprattutto tecnico-pratico all'aiuto ai detenuti nel campo, detenuti politici che facevano capo soprattutto, non dimentichiamo che il campo viene istituito nell'estate poi del 44 dopo lo smantellamento di Fossoli, Carpi e lo spostamento massiccio di tutta una struttura detentiva di, possiamo dire, usare una parola terribile, di stoccaggio delle persone verso poi i diversi campi finalizzati alla deportazione e al massacro finale, dove naturalmente a Bolzano nel 44, nell'estate del 44, giunge una parte finale dell'esperienza resistenziale, soprattutto dal nord Italia, nord Italia che è attanagliato completamente dalla duplice forza nazifascista, la Repubblica Sociale Italiana che continua nei suoi rastrellamenti, li continuerà fino all'ultimo giorno prima della resa nel territorio nord occidentale dell'Italia occupata, e anche ovviamente provengono parte di figure esponenti della resistenza locale che dopo il 18-19 dicembre del 44 finiscono in gran parte nelle mani delle strutture repressive della Gestapo Bolzanina e dell'SS come comando in piazza 4 Novembre e che si trovano a essere detenuti quando non vengono uccisi, come nel caso di Manlio Longoni e Gian Antonio Manci, e che quindi apparentemente terminano lì la loro esperienza esistenziale locale. Nel 1944 la figura di Visco Gilardi è una figura di raccordo con questo ambiente resistenziale particolarmente strutturato. Il suo collegamento è diretto con Lelio Basso, figura di straordinario rilievo nel panorama dell'antifascismo militante italiano, figura di intellettuale socialista di grande spirito e anche di notevole linearità, lucidità e anche radicalità dal punto di vista teorico e non solo, che lo avvicina e che lo incoraggia nel prendere attivamente le redini del sostegno esterno alle persone che sono detenute nel campo di Bolzano. Le figure con cui quindi opera Visco Gilardi sono figure che sono tutte singolarmente, qui ovviamente vorrei semplicemente chiosare un po' il discorso che ha fatto poco fa Giorgio delle Donne, figure di straordinario livello intellettuale, va detto un po' tutte, perché troviamo Laura Conti, troviamo Ada Bufalini nel campo, ci sono delle figure di riferimento con cui Gilardi continua a interagire, appunto rimane Lelio Basso, Enrico Serra, ci sono delle figure che hanno tutte un profilo singolarmente elevato, però devo dire che la figura di Visco Gilardi è la figura che poi, grazie anche a questo, a mio parere, straordinario testo, che riesce a mettere insieme in maniera molto diretta, molto lineare, ma anche molto chiara il suo itinerario teorico, ecco, si staglia per la particolare, possiamo dire, particolare livello di competenza anche, la particolare anche sensibilità che gli consente di avere un ruolo non solo estremamente efficace dal punto di vista operativo, ma di sostegno e di tensione morale che aiuterà egli stesso, ma anche gli altri detenuti, soprattutto nel blocco celle, dopo il 19 dicembre del 1944, a tenere duro e a fare opera di testimonianza e non solo, ma anche opera di riorganizzazione del soccorso interno e esterno del campo, con il sostegno di figure che rimangono esterne per fortuna al campo, come questa Anita Francaturra, che è una figura straordinaria, che questa di donna che parte dall'esperienza bolzanina, tutto sommato da un lato non politicizzato, e diventa una figura stupefacente di collaboratrice esterna insieme alla moglie di Visco Gilardi, di Maria, detto Mariuccia, che ha da accudire anche già una mole nutrita di figli e che trova il tempo incredibilmente di essere una figura di riferimento anche qui limpidissima e linearissima per questi resistenti che sono sulla linea estrema della resistenza al nazifascismo. Non dimentichiamo che la situazione particolarmente complessa che poco fa ha descritto Giorgio delle Donne naturalmente non incoraggiava a una fiducia ottimistica nei confronti delle sorti progressive di chi era detenuto nel campo di Bolzano neanche negli ultimi mesi della guerra. Dopo i bombardamenti del febbraio 1945 naturalmente la situazione poteva cambiare, ma come ci dimostra ampiamente la documentazione, all'interno del campo serpeggiava la paura di una liquidazione anche finale dei prigionieri e quindi occorreva anche una resistenza morale oltre che una resistenza organizzativa. In questo Visco Gilardi dà una prova straordinaria, di cui una testimonianza particolare, a mio parere, è questa lettera dalla cella 28 del blocco, che è un autentico autoritratto di un itinerario teorico e morale e spirituale di livello tale che consente a un detenuto in un campo che sta presagendo una possibile fine di dare un lascito di testimonianza con una eleganza, direi anche dal punto di vista culturale in senso alto, che ha pochi equivalenti. Cioè, se noi li compariamo, devo dire, adesso qui non si tratta di dare pagelle ovviamente, insomma, ma se noi ovviamente prendiamo la lettera di Visco Gilardi e guardiamo lo spessore di questa testimonianza rispetto anche a molte altre testimonianze di una resistenza italiana che è stata nobilissima anche per la sua, possiamo dire così, immediatezza per certi versi, qui troviamo un'elaborazione di un itinerario teorico, personale, etico, prima ancora che politico, che è veramente stupefacente. Io questo mi preme anche sottolinearlo, perché viene anche ad arricchire un po' il panorama che veniva illustrato poco fa. È una città, Bolzano, è un territorio questo che ha visto un transito di figure veramente particolarissime nel corso della sua storia. Alcuni che sono diventati poi parte anche un po' del nuovo ceto politico italiano, poi del secondo dopoguerra, e che hanno lasciato un segno notevole, insomma, io non solo per appartenenza all'ANPI, ma voglio ricordare Andrea Mascagni, che rimane una figura di grande leader politico del territorio e di prodotto, in un certo senso, veramente di alto rango di quello che poteva essere ed è stata parzialmente una classe dirigente locale, con un forte spirito democratico, una fortissima eticità antifascista e antinazista e soprattutto un grande spirito di concordia, come è stato ricordato all'inizio, fortemente di apertura al dialogo all'interno del territorio, con tutte le contraddizioni di un'epoca infarcita di grandi contraddizioni e di grandi lotte anche ideologiche. Ma Bolzano è stata una città che ha visto non solo quindi i parenti di Mascagni, il musicista, o Calamandrei, che mi ha ricordato poco fa, ma una cosa che forse è da ricordare anche in questa sede, una figura come Giorgio Spini, che è mancato da poco e che qui passa nel 41 a fare servizio militare e guarda caso viene ospitato in casa Visco Gilardi a discutere, a chiacchierare, a dibattere con una incredibile capacità di trasferire in questo territorio apparentemente così lontano da quello che sono i grandi luoghi di elaborazione culturale, trasferire delle parti sostanziose di dibattito culturale, di crescita culturale di una generazione che peraltro era giovane, insomma del 16, Giorgio Spini, quindi trova in Visco Gilardi un fratello maggiore, un interlocutore particolarmente qualificato, particolarmente elevato. Quindi una figura che su un piano diverso conferma una statura morale che caratterizza un po' una generazione intellettuale che si ritrova a far politica, è una figura che, come quella di Manlio Longhon, che si ritrova a essere vicino al contesto nel quale Gilardi opera all'inizio della sua esperienza resistenziale di sostegno e di organizzazione del soccorso del campo e che finirà purtroppo molto presto e tragicamente la sua esperienza umana tra le mura del quarto corpo d'armata, ucciso in maniera violentissima, in maniera bestiale e ovviamente non potrà diventare futura classe dirigente, ma lasciamo intravedere degli sviluppi anche lì molto interessanti. Questo è un territorio nel quale, anche se più su Trento che su Bolzano, ha operato l'influsso anche di una figura che Andrea Mascagni ricordava come una straordinaria figura dal punto di vista politico-culturale, che era Mario Pasi. Pasi, medico a Trento, era una figura di una promessa intellettuale, di quadro dirigente del Partito Comunista, di cui Mascagni ricordo ancora personalmente, l'autentico afflato etico, prima ancora anche lì che ideologico, e di come cercasse di dare incoraggiamento a questi giovani intellettuali che si avvicinavano alla politica con la veemenza del neofita, che come tale estremizza e radicalizza le posizioni, incoraggiandoli a riflettere autonomamente, a pensare sulle cose e soprattutto cercare di dialogare. Cosa che l'Andrea Mascagni ha ricordato per tutta la vita, insomma, quindi, e che gli ha lasciato un'eredità. Quindi in questo senso Visco Gilardi è una conferma particolarmente limpida di quello che è stato un po' anche una parte della storia di questa città, certamente più come vocazione di città di transito di molte figure intellettuali, di cui però non va appunto dimenticato l'importanza per la traccia che hanno lasciato. Io non voglio annoiare eccessivamente il gentilissimo e attento pubblico, però vorrei spendere una parola per quanto riguarda un discorso che invece va fatto forse sull'oggi più che sul discorso di descrizione di quello che è stato il contesto della resistenza in provincia di Bolzano, che ha assunto, e qui lo voglio sottolineare ancora una volta, spesso un carattere più etico e spesso un carattere più ancora di partecipazione, di solidarietà umana con una classe operaia certamente scarsamente politicizzata, come è stato sottolineato, ma che spesso ereditava anche dalle zone di origine e talvolta dalla stessa estrazione sociale un solidarismo vissuto più che teorizzato e praticato, cioè più che teorizzato viene praticato. La storia del casello di Viaresia, in cui due donne che lavorano come casellanti partecipano attivamente all'organizzazione delle fughe dal campo, la famosa vicenda della bicicletta lasciata appoggiata al muro nel tentativo di agevolare la fuga di Le Petit, che però non riesce, ma che viene utilizzata poi da un quadro comunista che riesce a scappare talmente agilmente, come viene raccontato dalla documentazione, che non riescono neanche quelli che lo stanno assistendo, insomma, a raggiungerlo per tempo, perché è talmente veloce nella fuga che dà polvere a tutti quanti. Ecco, sono dei segni di una attività di affiancamento solidale alla resistenza antifascista antinazista, che qui va particolarmente sottolineata, perché naturalmente rientrava in un quadro di particolari difficoltà. Ecco, in questo senso, quello che mi preme invece, ecco, ricordare un po', e qui concludo e lascio la parola al pastore Bouchard, è la necessità che questa attenzione nei confronti di alcuni di questi itinerari biografici così particolari vada sostenuta e vada nutrita in questo senso. Una figura come Visco Gilardi è una figura che dovrebbe davvero diventare oggetto di una riflessione più ampia, più approfondita, più sistematica anche dal punto di vista della storiografia locale, di chi se ne occupa a livello locale, ma locale qui non vuol dire naturalmente solo provinciale, vuol dire anche in senso più allargato di chi si occupa di storia della resistenza in Italia nel periodo soprattutto 43-45, trova già un suo validissimo inquadramento, di questo sono contentissimo, all'interno di una grande e prestigiosa e gloriosa casa editrice come la Claudiana, che ha avuto il merito di sostenerne una attenzione, anche un rilancio dal punto di vista storiografico, che credo troverà poi una continuazione, una ripresa, ma certamente ci insegna anche una cosa, che le figure che pure sono già di per sé, si chiacchierava poco fa col pastore Bouchard, un dono della provvidenza, lui diceva con un linguaggio profetico in qualche misura, che mi trova concorde in questo senso qui, perché effettivamente la spiritualità attiva di Visco Gilardi è davvero una rarità di questi tempi, in modo particolare, devo dire, dove leggere l'itinerario intellettuale e culturale di Visco Gilardi e accendere una radio o una televisione lascia sconcertati, insomma, no? Nel contesto in cui ci troviamo. Basta spegnerla, effettivamente staccare la spina per non sbagliare anche. E, ecco, in questo senso però vanno, credo, proprio nutrite e stimolate queste iniziative, che sono tese non fare un'operazione testimoniale puramente retorica, ma di una testimonianza che diventa dialogo, diventa dibattito, diventa anche, direi, uno stimolo forte nel ripensare in termini estremamente attuali quello che è il lascito di figure come quella di Visco Gilardi. Io, senza annoiare, volevo solo brevemente leggere una delle parti che mi ha colpito di più, semplicemente come accenno su una tematica, una lettura. È una lettura molto discutibile da alcuni punti di vista, perché una straordinaria sottigliezza filologica che ogni tanto gli scappa, quindi è proprio divertente, no? Ogni tanto leggere questa volontà di essere aderente a un diamat da una parte, un materialismo dialettico rigido, tirare i propri cavalli in piazza San Pietro, intellettuale che era nato sotto l'ala protettrice di Arturo Carlo Iemolo, qua alleggiano un paio di Buonaiuti, che alleggia dietro la figura di Visco Gilardi al giuramento di fascista, e quindi come tale aver perduto e di essere stati aver perduto il lavoro, ecco, quindi la cosa interessante è che Ferdinando Visco Gilardi, che in questo periodo degli anni 60 è marxista ed è molto, non è un marxista semplice, non è un marxista da salotto e non è un marxista da piazza, è un marxista teorico, colto, che ha fatto il suo approdo a Treviri, come scrive nella sua memoria, nella lettera, e quindi ha un itinerario culturale che da Benedetto Croce lo conduce, con un itinerario che è classico anche in un certo senso della sinistra teorica italiana, attraverso la Briola, arrivano a Marx, senza itinerari che sono abbastanza comuni di una generazione, peraltro in genere più vecchia di quella di Visco Gilardi. Lui ha una impostazione teorica, non è un autodidatta nel senso deteriore del termine, è un intellettuale autonomo nel senso alto del termine, quindi si muove attraverso, dopo aver ascoltato una conferenza di Donini, e gli replica in due paginette scritte in punta di penna con un'eleganza anche qui straordinaria, tra sottotraccia, tra detto e non detto, però in termini molto chiari scrive una cosa che io non sono assolutamente diciamo culturalmente vicinissimo alle controversie teologiche contemporanee della Chiesa Cattolica o cose di questo genere, però colpiscono. Mi colpisce molto questa frase quando lui mette i puntini sulle i tra quello che è la religione storica e la religiosità, e dice: ma la religiosità come fatto di coscienza che si oppone alla religione codificata, alla pressione politica dell'istituzione, al passivo e fanatico atteggiarsi delle moltitudini, tale religiosità, ripeto, non può essere confusa con ciò che giustamente viene definito l'oppio del popolo. Siamo qui in presenza di quella dimensione accennata poc'anzi che trae origine a un fatto obiettivo e reale, il fatto religioso. Tuttavia, e qui l'apparente paradosso, la religiosità non sarebbe se le religioni positive non fossero. Questa apertura dialettica, questa impostazione problematica, nello stesso tempo questa attenzione a un'esperienza di fede che si è tradotta in un'eticità vissuta quotidianamente, anche in questo straordinario rapporto con questa straordinaria moglie che ha avuto fortuna di incontrare nel suo cammino di vita, ecco, direi sono passi su cui possiamo continuare a riflettere in un contesto molto attuale in cui talvolta tra culture diverse il dialogo è faticosissimo, e una figura come Vescovo Gilardi questo dialogo l'ha pervicacemente, testardamente e possiamo dire limpidamente perseguita per tutta la sua vita. Vi ringrazio. Poi mi toglie la parola se ci riesce, ma ci provo a essere breve. Grazie mille per la bella accoglienza, per la puntualità, che è cosa rara nella felice e ben governata Repubblica Italiana, a cui l'ANPI si oppone, non capisco proprio perché, ma tutto. Chiedo scusa. Ringrazio queste belle introduzioni. Io appartengo anche a una minoranza culturale, i valdesi non solo di fede ma di dialetto, poi ci sono gli altri come Gilardi, e quindi mi ha interessato moltissimo. Questa è la 12ª presentazione che facciamo di questo libro, Dio volendo ne faremo delle altre, invaderemo l'Italia centrale, vero Aldo? È lui che organizza. È nella seconda, fatta in periferia nella periferia bene di Torino, quella spiritualmente più dotata, era relatore un nostro amico, cattolico, credente, praticante, docente universitario di fisica. Quella ha fatto una bellissima presentazione, però ci ha detto a me e a mia moglie, che vi saluta molto, è iscritta all'ANPI ma non se la sentiva di fare questa straccata. Lui dice a mia moglie e a me: ma perché voi evangelici ci tenete nascoste personalità di questo tipo? È la communio sanctorum, vero? Nel senso bonhoefferiano della... Allora, per motivi che è difficile raccontare brevemente, la famiglia Gilardi si è molto impegnata nella creazione di questo ricordo. Aldo ha fatto tutto il lavoro, io mi sono solo fatto bello con le penne del pavone, la televisione, eccetera. Aldo ha scavato negli 8.500 volumi della biblioteca del papà, che è tutta raccolta in casa, ha scavato nella sterminata corrispondenza, scriveva più lettere che San Paolo il papà, vero? E è riuscito a trovare cose di cui qualcuna verrà menzionata oggi. Ferdinando e Mariuccia, sicuramente personalità eccezionali. Nessuno si stupisca se li definirò come dei moderni puritani. Lo so che adesso la parola è antipatica, ma chi ha letto Michael Walzer sa cosa vuol dire propriamente la parola puritani. Puritani anche dal punto di vista privato, un lungo fidanzamento, 12 anni, unicamente epistolare, non so se si davano un bacino ogni 6 mesi, non è dimostrato, vero? In compenso si sposano, fanno 6 figli in 10 anni, qui ce ne 3 o 4, ma siccome 6 figli sono pochi, 5, chiedo scusa, ma siete talmente una tribù, siccome sono pochi adottano un nipote che era figlio libero, diciamo, di una persona. Quindi questo è il tipo. Muore giovane, 55 anni, di cancro, Mariuccia, Nando non si risposa mai, e lui disse a me, ero il suo pastore, ho purtroppo celebrato il suo funerale a Sesto San Giovanni, ormai molti anni fa, mi disse: Giorgio, Io ho avuto una sola donna nella mia vita. È Aldo che scava tutto, un segugio. Il nonno era detective, si spiega tutto con questo, no? Però ha trovato, sì, ecco, bravissimo, questo è il libro. Ha trovato in Gilardi, già anziano, sessantenne, l'elogio della castità. Per fare cosa in quegli anni non di moda, adesso non parliamone. È un puritano. Che cosa significa questo? Che l'amore è un dialogo. Lui mi disse, allora avevo 35-40 anni, lui mi disse: Giorgio, il sesso è un linguaggio. Su questo sono pienamente d'accordo. Ma l'aspetto puritano era anche questo, è già stato detto da uno di voi, che l'azione diventa importantissima. Certo, non è l'attivismo pragmatista, perciò la grande cultura che avete tutti e due notato. Nella sua vita lui è un medio dirigente industriale, Dio sa come trova tempo per leggere una quantità sterminata di libri, e a un certo punto lascia il suo lavoro di piccolo dirigente e di una piccola libreria. Gilardi è noto era il suo socio, in Piazza del Duomo a Milano fa un'editrice che negli anni 30, nei terribili, io ci sono nato, ci sono cresciuto in quegli anni, nei terribili anni 30 in cui erano fascisti tutti in Italia, salvo quelli che stavano in galera, no? Ma non bisogna dire che erano comunisti, no, non erano qualcos'altro. Beh, erano fascisti tutti, me lo ricordo benissimo. Però, in quegli anni la libreria, l'editrice Gilardi è noto, pubblica, per esempio, l'unico libro politico di Benedetto Croce, Orizzonti, che... Orientamenti, scusami, che è un attacco al nazismo, ma insomma si parla a nuora perché suocera intenda. Il libro tira in pochissimo tempo 6.000 copie, due edizioni, cosa allora rarissima, per libri si facevano 1.000 copie era già tanto. Lui non era crociano, tuttavia aveva un rapporto personale con Croce, quindi insomma questo Gilardi era qualcuno. Croce era il grande nome liberale dell'epoca, benché Gilardi non fosse certamente un liberale. Questa libreria editrice, che poi viene eliminata per motivi di piano regolatore, e adesso c'è lì a Milano quell'orrore che l'Arengario, l'hanno costruito perché Benito potesse fare i suoi discorsi, perché non c'era ancora Mediaset a quell'epoca, quindi il dittatore doveva parlare fisicamente dall'alto, e lì è andata a vedere l'Arengario, orribile, lì c'era la Gilardi è noto. La libreria diventa un incrocio di antifascisti di ogni genere. Per molti anni Gilardi e sua moglie saranno gobettiani, in realtà. Poi IGL non ha mai perdonato a Ferdinando talune scelte posteriori. Sono gobettiani, che vuol dire liberal socialisti, tanto per intenderci. Vengono lì un giovane come Lelio Basso, vero? Poi c'è un'organizzazione evangelica, loro hanno ambedue membri attivi della Chiesa Evangelica Metodista di Milano, come Spini, che abbiamo commemorato lunedì a Firenze, vero? Adesso Metodisti e Valdesi sono uniti, e loro erano due chiese distinte, ma soprattutto erano membri di una famosa organizzazione giovanile, la ACDG, Associazione dei Giovani, che Spini qui in un bel dialogo con Aldo rievoca potentemente, una cosa nata in Inghilterra, internazionale e quindi bene informata, fatalmente antifascista. Ferdinando fu per 12 o 18 anni presidente, 12 anni a Milano, fece venire ogni sorta di personalità del mondo evangelico, cattolico, ebraico, laico, marxista, non importa, a parlare a questo gruppo di giovani. Quindi l'orizzonte culturale era immediato e certamente molto vasto. Ma guarda caso, la libreria editrice pubblica un libro di Buonaiuti. Adesso i più giovani non sanno più chi era Buonaiuti, sacerdote modernista, emarginato, che posso vantarmi, mangiò grazie ai protestanti come Gilardi, che gli pagavano le sue conferenze, perché era proprio emarginato alla fame, e poi non voleva diventare protestante, no? Ora, di Buonaiuti, Gilardi pubblica un libro che è stato decisivo nella mia formazione come pastore evangelico, La Chiesa Romana, e non sapevo che poi avrei avuto quell'amicizia con l'editore e con i suoi figli, che è un libro in cui c'è tutta la fede cattolica, ma sofferente di Buonaiuti. Fu un valdese, presidente della CDG nazionale, Alberto Sibille, di cui noi valdesi parliamo poco perché non era un pastore. Noi non siamo clericali, però i pastori, si sa, abbiamo una qualità, pastore in eterno. Benissimo. Comunque pubblico questo libro, di nuovo 6.000 copie. E poi c'è una cosa che devo raccontare. Gilardi era molto amico di un famoso pastore valdese, Ugo Ianni, che in realtà era un anglicano, tanto per capirci. Se andate a Sanremo, andate a vedere la chiesa valdese, è uno dei peggiori esempi di chiesa anglicana. Il mio spirito calvinista si ribella, non voglio mai predicarli. Benissimo, lui era amico di Ianni, tant'è vero che il matrimonio puritano fu celebrato dal pastore Ianni, che però sposò una mia compaesana, quindi era certamente una brava persona, per chiesa valdese si regge sul sacramento del matrimonio, anche se lo neghiamo in teoria, infatti. Allora c'è un epistolario scoperto da Aldo in un libro di Don Lorenzo Bedeschi, grande studioso, che è impressionante, perché il pastore Ianni scrive al vescovo Gilardi, normale membro di chiesa, e gli dice: hanno condannato così gravemente Buonaiuti che ho paura che perda la fede. A quell'epoca in Francia un grande modernista, Loisy, era stato scomunicato, automaticamente diventato ateo, poi in punto di morte, come si sa, ha lasciato venire, insomma, questa è la parte un po' più così, da meditare.